Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Buona giornata, bentornati all'appuntamento con Europa Europa. Cominciamo subito ascoltando un servizio che di fatto ci ricorda poi perché tratteremo ampiamente un tema che riguarda l'ambiente, appunto, di cui sentiamo tra un istante, ma anche gli interventi per il futuro dell'economia europea. Il trend di lungo periodo che indica un chiaro riscaldamento del pianeta provocato dalle attività umane non si arresta e secondo i dati raccolti dagli scienziati della NASA e dell'Agenzia Americana per gli Oceani e l'Atmosfera, gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi dal 1880, cioè da quando si fanno le rilevazioni delle temperature. Oggi la Terra è in media più calda di circa un grado rispetto a 140 anni fa. E, spiegano gli scienziati, il decennio appena concluso è chiaramente quello più caldo mai registrato e ogni decennio dagli anni 60 ad oggi è stato più caldo di quello precedente. La situazione è drammatica e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha detto di aspettarsi molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi. È ora di cambiare rotta, il mondo della finanza se n'è accorto, la politica ancora troppo poco. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco dunque, il servizio ci ricorda dei dati che di fatto ormai si rinnovano e vengono confermati di anno in anno e questo ci porta in maniera abbastanza naturale al tema principale di oggi, cioè il Green Deal europeo che di fatto è la risposta europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Si tratta, ve lo ricordo, di un progetto che ha l'obiettivo di azzerare entro 2050, quindi 30 anni per farlo, le emissioni inquinanti in Europa. Per farlo si parla di mobilitare almeno 100 miliardi di euro, questo almeno sulla carta, a sostegno di un'economia più rispettosa dell'ambiente senza lasciare indietro nessuno. Come si capisce, una sfida di quelle globali di lungo periodo, strategiche, ed è giusto che l'Europa e la nuova Commissione appena insediata ne abbia uno, ma naturalmente i problemi sono poi quelli legati a realizzare un progetto così ambizioso. Intanto in settimana il Parlamento di Strasburgo ha approvato appunto il Green Deal promosso da Ursula von der Leyen. Allora partiamo proprio dalle cifre con Anna Marino. Nelle intenzioni dei promotori, il grande piano verde dovrebbe abbattere del 40% le emissioni inquinanti europee entro il 2030, puntando all'impatto zero entro il 2050. Nel piatto sono già pronti 1.000 miliardi, per la precisione 1.021, per i prossimi 10 anni, anche se per alcuni ce ne vorrebbero più del doppio, circa 260 all'anno. Si parte con un totale di 100 miliardi del fondo di transizione, che aiuta le aree che saranno economicamente e socialmente più in difficoltà nella fase di transizione economica. Lo schema di gioco e di ripartizione è lo stesso del piano in 10 anni, finanziato dal 2021 da 7,5 miliardi freschi del bilancio europeo, che in totale fornirà 502 miliardi in 10 anni. Faranno subito da volano, si stima, ad investimenti privati per una cifra finale tra i 30 e i 50 miliardi. Altri 45 miliardi dovrebbero arrivare da Invest EU, lo schema per gli investimenti che sarà gestito dal commissario all'economia Paolo Gentiloni, che nei 10 anni stanzia 279 miliardi. Il resto dei soldi del fondo li metteranno il cofinanziamento nazionale e la BEI, sempre più Banca Europea Verde. Secondo le tabelle presentate dall'esecutivo europeo, il fondo di transizione destinerà all'Italia circa 364 milioni di euro in 7 anni. Tuttavia il nostro paese dovrà versare circa 900 milioni di euro per alimentare il fondo, essendo un contributore netto al bilancio europeo come la Germania, a cui andrebbero 877 milioni di euro a fronte di un contributo al fondo di circa 1,5 miliardi e la Francia dovrebbe ricevere 402 milioni di euro dal fondo, che alimenterebbe con circa 1,1 miliardo, paesi che verserebbero di più rispetto ai beneficiari netti per alimentare il prossimo bilancio europeo 2021-2027, ma la discussione è ancora aperta, anche se la Polonia potrebbe andare il massimo previsto, 2 miliardi, la fetta più grande. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 2 miliardi dunque ipotetici alla Polonia. Allora si parla spesso, no, di questa questione, legittimamente, tra chi mette, chi prende e come lo facciamo nelle diverse fasi dei progetti. La logica che sottintende questa disparità sta naturalmente nel PIL che ciascuno Stato ha e anche nel fatto che una trasformazione industriale dell'Europa poi determina un beneficio per quei paesi industrialmente più forti che sono in grado di essere un'avanguardia nella produzione di quelle tecnologie, di quella energia verde, di quella industria verde in senso lato, che appunto di cui l'Europa ha bisogno. Di tutto questo, naturalmente, con tantissimi punti da definire. Allora, Anna Marino, che abbiamo appena sentito, ne ha parlato anche con Andrea Roventini, economista all'Università Sant'Anna di Pisa, che sostanzialmente ci dice perché comunque vada questa esigenza di intraprendere un percorso innovativo in termini di economia ambientale non possa essere più rimandato. Sentiamolo. Quello che le ricerche dicono è che per riuscire ad arrivare a una crescita a zero emissioni per il 2050, che sarebbe l'obiettivo del Green Deal, bisognerebbe investire tra l'1 e il 2% del PIL ogni anno. Quindi per il momento le cifre stanziate non sono sufficienti. Visto che siamo comunque più avanti allora rispetto ad altri paesi, ma c'è ancora da scommettere, quali sarebbero le zone che necessitano ancora di una riconversione? Le risorse stanziate nel Green Deal balleranno, perché c'è una fase di contrattazione politica, presumo, in cui ci saranno alcuni paesi che sono più propensi a mettere risorse rispetto ad altri. L'economia polacca è molto più dipendente dal carbone per generare energia elettrica. I grossi problemi dell'Italia non è solo collegato al cambiamento climatico, ma deriva dall'inquinamento della pianura padana, perché è una delle aree più inquinate d'Europa, e fenomeni di inquinamento locale come l'Ilva. È necessario fare un'operazione capillare, di capire quali sono i distretti, quali sono le zone dove si può puntare per sviluppare sia le nuove tecnologie e le nuove imprese. E ovviamente bisogna mettere soldi anche nell'università e nella ricerca pubblica. C'è un problema, secondo me, in Europa, che c'è una schizofrenia che ci portiamo dentro, per cui da un lato si cerca di aumentare l'innovazione, la competitività dell'Europa, di sconfiggere i problemi del cambiamento climatico. Dall'altro però ci sono dei vincoli di bilancio molto forti, anche di politica fiscale, sui singoli paesi, e questo ci potrebbe anche stare, ma non c'è una politica europea fiscale sufficiente per supportare quegli investimenti richiesti dal Green Deal. Quindi insomma, mi auguro che questo piano sia solo l'inizio. Avete sentito dunque l'economista di Pisa che dice: mi auguro che il piano sia solo l'inizio. Di fatto ce lo auguriamo tutti, perché è chiaro che questo è un quadro generale. L'assenza di una politica fiscale, al di là di questo specifico dossier, rimane uno dei problemi fondamentali. Poi esiste anche, diciamo, il piano dell'ambizione. Vi facciamo sentire un breve passaggio di una conversazione che il nostro Maurizio Melis ha avuto con Anne Pettifor. Anne Pettifor è una economista britannica, consigliera di governo e organizzazioni, ma ci interessa perché di fatto viene considerata in qualche modo la madre dell'idea dello European Green Deal, e su questa proposta, appunto, di questa settimana è molto critica. So, in my view, it falls short of the ambition of the Green New Deal because it will not tackle the source of financing, ecco, for the transformation. Anne Pettifor dice: credo che il programma sia ben al di sotto dell'ambizione che dichiara di avere, perché non va a toccare il tema della fonte dei finanziamenti per la trasformazione che deve avvenire in Europa. Non fa nulla perché il sistema finanziario abbia interesse a finanziare questa grande trasformazione, non interviene sui sistemi di trasporto, quelli terrestri ma anche quelli aerei e navali, e dice dunque: il progetto della signora von der Leyen conta su ben pochi soldi, infatti 1,3 miliardi sulle cifre, poi c'è un certo balletto, avete sentito, in 10 anni. Comunque, dice la Pettifor, sono noccioline, anzi sono meno delle noccioline, ed è triste, aggiunge, secondo me, che lei stessa, quindi la signora von der Leyen, pensi a questa cifra così modesta e pensi che solo questa cifra possa essere mobilitata in un contesto che in realtà è di grande benessere, qual è l'Europa di oggi. Insomma, dice Anne Pettifor, i soldi ci sarebbero anche, ma è evidente che si ritiene di non potere o di non volerli mettere. Chi avrà a che fare con la gestione quasi day by day di tutto questo enorme progetto, lo ricordiamo, trentennale, è Frans Timmermans. Lo conosciamo, l'abbiamo spesso citato, uomo politico di lungo corso, come si dice, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo. Lui infatti ha una doppia funzione: presiede il gruppo dei commissari sul Green Deal europeo, ma gestisce anche il portafoglio di azioni per il clima. This just transition mechanism of at least 100 billion euros is a pledge that the European Union stands with you in this transition. Ecco, quello che dice Timmermans nel discorso, quello che ha detto in settimana, è lui parla di 100 miliardi, di nuovo, sono i 100 miliardi che questo sistema dovrebbe generare e innescare, per essere chiari, e dice questa è la prova che l'Unione Europea, che il meccanismo, il sistema appunto dell'Unione sta con voi e si rivolge dunque ai cittadini, ma in questo caso soprattutto agli imprenditori, perché questa transizione possa avvenire. Il meccanismo per una transizione giusta, già questo è un po' il sinonimo di questo progetto, dice invece Gentiloni, può certamente riguardare l'Ilva. Ora, il commissario europeo all'economia parla naturalmente in questo contesto perché uno dei luoghi, in qualche modo simbolo del continente che ha bisogno della transizione, in questo caso dal carbone e ovviamente per la produzione dell'acciaio ad altre forme, è proprio gli impianti di Taranto. E questo spiega anche perché all'inizio abbiamo parlato di cifre così importanti per la Polonia, che all'interno dell'Unione Europea è di gran lunga il paese più legato, radicato alla produzione di energia elettrica, appunto attraverso il carbone. Allora sentiamo Gentiloni. Uno dei nostri obiettivi sarà quello di facilitare gli investimenti pubblici per la transizione ecologica. La modalità attraverso la quale questa facilitazione avverrà farà parte della discussione che faremo a partire dalla comunicazione di febbraio sulla revisione delle nostre regole in materie fiscali. Non posso certo anticipare io una conclusione di un dibattito che non è ancora formalmente cominciato. Ancora una volta la questione fiscale. Evidentemente è ormai venuto, come dire, il nodo al pettine da affrontare a livello europeo. Intanto, visto che abbiamo accennato alla transizione dei grandi sistemi di trasporto, è arrivato il momento di sentire gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Europa, Europa. Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza, Gigi Donelli al microfono, ben ritrovati. Dunque completiamo il blocco di fatto sul Green New Deal che, come abbiamo sentito, insomma, inizia un percorso. E sentiamo una riflessione, un commento che ci arriva da Bruxelles dal corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. È facile avere dubbi ed esprimere scetticismo sul nuovo progetto della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Il Green New Deal deve servire all'Unione europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per rendere questo obiettivo credibile, il piano prevede un complicato meccanismo che associa denaro contante e leva finanziaria per un totale di 1.000 miliardi di euro in 10 anni. Di questi, appena 100 miliardi dovrebbero servire ad aiutare la transizione energetica, di cui solo 7 miliardi e mezzo di denaro fresco. Hanno ragione i più critici a fare notare che i capitali sono pochi e che il meccanismo è complicato. Eppure il Green New Deal ha aspetti indubbiamente positivi. Prima di tutto potrebbe innescare un riorientamento dell'economia europea. Grazie a una dose di ambientalismo vi è la possibilità di promuovere l'innovazione e rilanciare la congiuntura. In secondo luogo, alla luce del nuovo spirito ecologico dell'opinione pubblica europea, il Green New Deal potrebbe riavvicinare i cittadini al progetto comunitario. Infine, affronta a testa alta un tema che è per definizione transnazionale e sul quale i partiti più nazionalisti e più radicali sono per natura impotenti. In ultima analisi, il Green New Deal, nonostante le sue pecche, potrebbe rivelarsi un volano sia economico che politico. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E adesso un po' di cronaca, perché i fondi, che non sono evidentemente mai abbastanza, però fanno gola soprattutto alle attività illecite. In settimana un blitz di Guardia di Finanza e ROS per il più imponente di fatto attacco contro i clan mafiosi messinesi dei Nebro, di un'inchiesta che ha svelato una truffa milionaria ai danni dell'Unione Europea. Da tempo si sono alleati per sottrarre fondi all'Unione Europea, oltre 10 milioni in 10 anni, per terreni mai posseduti. Una mafia moderna, dedita più alle truffe che alle estorsioni e agli omicidi, scrivono i magistrati di Messina nell'ordinanza con cui hanno arrestato 94 persone, quasi 200 gli indagati, 150 le aziende sequestrate, in carcere i boss dei clan dei Batanesi e dei Bontempo Scavo di Tortorici, nel Parco dei Nebrodi, oltre al sindaco Emanuele Sardo Galati e insospettati. Professionisti, questi ultimi avvallavano la regolarità delle domande con cui prestanomi delle cosche chiedevano i contributi per gli appezzamenti fantasma sulla cui proprietà nessuno ha mai controllato. Il procuratore antimafia Federico Cafiero De Rao: questo sistema criminale non avrebbe potuto funzionare se non avesse avuto il sostegno del centro di assistenza agricola, notai, professionisti, per conseguire appunto queste finalità. Un sistema denunciato dall'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che nel 2016 subì un attentato mafioso. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani esce in edicola con Il Sole 24 Ore e resta in edicola e in libreria un volume intitolato La pietra nera del ricordo, giornata della memoria, i primi 20 anni. L'autore è Giulio Busi, che ha realizzato con Silvana Greco. Ovviamente, come avete intuito dal sottotitolo, è qualcosa che ci ricorda che la giornata della memoria, che è entrata a far parte della nostra cultura, ovviamente la memoria che noi celebriamo in concomitanza con la liberazione scoperta in qualche modo del campo di sterminio di Auschwitz, è parte appunto dei nostri appuntamenti solo, direi, da 20 anni. Il tutto prende spunto da una citazione che troviamo all'inizio e nella quarta di copertina. Infatti Giulio Busi ha voluto scrivere: ancora più della sofferenza e della morte, la vera fine, l'ultima catastrofe è l'assenza di ricordo. E da lì siamo partiti in questa conversazione. Sentiamo. Ah, questo si rifà a una citazione che è in esergo al libro, che viene da un testo di mistica ebraica che si chiama Zohar, della fine del 200, e in questo testo, in maniera abbastanza inaspettata, compare qualcosa di molto moderno, di tragicamente contemporaneo. C'è un simbolismo di una pietra nera non meglio specificata, e comunque un simbolismo negativo. Poi il testo improvvisamente si apre in questa frase: dov'è questa pietra nera e dove non c'è il ricordo, e quella è la fine. Io, quando ho letto la frase più di 20 anni fa, ho pensato che era una specie di premonizione di quello che poi sarebbe successo, qualcosa con cui la tradizione ebraica si è confrontata da lunghissimo tempo, anche prima della Shoah, sebbene la Shoah marchi veramente l'apice di una persecuzione, del tentativo di distruggere la memoria. Ecco, Giulio Busi, che rischi corriamo perché l'oblio torni su questa drammatica storia? Non c'è un vaccino contro la mancanza di memoria. Ogni generazione deve riacquistarla, questa memoria. La memoria, se no, altrimenti va persa. Per questo il libro è dedicato ai giovani, ai nostri giovani, perché sappiano e ricordino. Silvana Greco, uno degli aspetti che appunto caratterizzano questa narrazione della Shoah è proprio la presenza fisica dei testimoni. In Italia è molto forte, nelle scuole. Io vorrei chiedere a lei, ecco, se questo paese ha maturato degli anticorpi dell'antisemitismo. Ma ha senz'altro maturato degli anticorpi sull'antisemitismo, ma si può irrobustire, cioè bisogna ancora fare molto. In Italia la politica è maturata? Ma io penso che comunque ci sia ancora un fenomeno di grande rimozione collettiva per quanto riguarda proprio la responsabilità che ha avuto poi il fascismo. Detto questo, gli ultimi momenti anche se sono stati molto accesi, un dibattito molto forte, però abbiamo visto anche un seguito che ha avuto ultimamente proprio Liliana Segre, quando è riuscita, quando è stata questa marcia a Milano, e quindi c'è stato anche un coinvolgimento, mi sembra, molto sentito da parte della popolazione, e quindi io sono anche, c'è anche una parte mia ottimista. L'Europa centro-orientale, che raccontate ancora oggi, è al centro di un dibattito molto vivace su memoria, responsabilità, pensiamo alle tensioni in Polonia, sulla rimozione, l'Ucraina. E questo a suo avviso è una dimostrazione di una presa di consapevolezza, cioè di un'analisi, o è semplicemente un ritorno di fiamma dell'antisemitismo? Beh, il tema dell'Europa, della Shoah a livello europeo, della memoria a livello europeo è un tema fondamentale, perché la Shoah è parte dalla Germania, è stata voluta ed eseguita sostanzialmente dai tedeschi, ma con la complicità, col concorso, con l'omertà, vari gradi di partecipazione europea, è stato purtroppo un fenomeno paneuropeo e quindi come tale va affrontato e ricordato. Per cui diciamo che essere compartecipi come colpevoli delle persecuzioni della Shoah contrasta con un'immagine nazionalistica e di purezza della propria patria che in questo momento ha ripreso abbastanza il sopravvento, qualcosa che avviene in Polonia, qualcosa che avviene in Ucraina, qualcosa che avviene in Ungheria. E, diciamo che una storia più recente significa fare i conti anche con una revisione della propria coscienza, una revisione del proprio accadimento, e questo antico fantasma dei nazionalismi che così terribilmente ha distrutto e angosciato l'Europa è molto duro a morire. La pietra nera del ricordo, giornata della memoria ai primi 20 anni, a cura di Giulio Busi, con contributi di Silvana Greco. Li abbiamo sentiti e ringraziamo di essere stati con noi. Ringraziamo naturalmente tutti voi. Adesso è tempo di GR24. Noi ci risentiamo la prossima settimana.